questo venerdì 17 ottobre. Ricordate che se fosse stato venerdì 13 sarebbe stato molto peggio di venerdì 17. Il Sole 24 Ore apre così: torna la tensione sugli spread, mentre per il Corriere della Sera manovra chi ci guadagna. Sulla manovra e le regioni in rivolta, l'apertura di Repubblica, Renzi le attacca, tagliate gli sprechi. Anche la Stampa: tagli regioni contro Renzi, e così il Messaggero. Mentre Libero: sanità, pensioni, spread, ecco dove casca l'asino. Renzi chiude le regioni, il Giornale. Facile tagliare le tasse coi soldi dei cittadini, e invece il Fatto Quotidiano, la rivolta contro Renzi. Vado veloce con le aperture dei giornali perché voglio leggere i tantissimi articoli interessanti che oggi ho trovato sui giornali, a cominciare da l'intervista che Beppe Severgnini fa, una pagina intera, pagina 8, a Carlo Cottarelli, che è l'ex commissario della Spending Review, che parla per la prima volta in una intervista in un grande quotidiano, è cremonese, con una faccia americana, così lo definisce Severgnini. Eccolo qua, Carlo Cottarelli: non mi davano neanche i documenti le resistenze dei burocrati a Roma. Parla a pagina 8, dice di avere nostalgia di Washington, del mio letto, della mia famiglia. Mi han detto: vieni qui, vediamo 3 anni, forse dopo un anno però facciamo il punto. E lui, ecco, dopo un anno, mi sembra che la parte principale del mio lavoro possa dirsi completata. È un anno pesante quello appena finito. La mattina spesso mi chiedevo: ma che ci faccio qui? Poi durante la giornata passava, ma rientrare dopo 25 anni d'America in Italia non è stato facile. Il lavoro difficile, ma comunque un'esperienza positiva. Darei un bell'8 a questo anno da commissario Spending Review. Cottarelli che promuove la legge di stabilità definita molto coraggiosa. E poi ecco qui le resistenze di questi anni. E qui udite, udite, perché racconta delle cose Cottarelli che altro che da mani sul volante. Beh, intanto la burocrazia romana mi ha reso difficile il lavoro. Beh, è un po' vago, chiede Severgnini. Allora diciamo così, i capi di gabinetto, ecco, si conoscono tutti tra loro, parlano tutti lo stesso linguaggio, scrivono leggi lunghissime, hanno in mano tutto, difficilmente in modo leggibile scrivono. Costituiscono un gruppo omogeneo e spesso molti documenti non mi venivano dati, ma non per cattiva intenzione, ma perché non facevo parte della struttura. Dopo 1, 2, 3 settimane veniva a sapere le cose. Ecco, questa è stata una enorme difficoltà. E la cosa più assurda, quella che racconterà ai nipoti, questa è legata alle auto blu, mio pallino. Quando ho discusso col Ministero della Difesa dell'opportunità che alcuni ufficiali dell'esercito rinunciassero all'auto di servizio, ho scoperto che esiste un regolamento di esercito e marina che impedisce ai militari di andare in giro con l'ombrello. E siccome non si possono bagnare, devono usare l'auto blu. Questa veramente mi ha fatto ripiombare nel 700 forse. Comunque non c'erano le auto blu, ma forse le carrozze blu. Ecco, questa cosa mi è sembrata veramente un po' strana, aggiunge Cottarelli. No, quella del 700 è mia, come chiosa, non di Cottarelli. Quella che mi ha fatto piombare nel 700 non ha detta Cottarelli. Ma insomma, è una cosa assurda. E poi sentite qua, i commessi. Molti oggi non hanno un lavoro da svolgere. Stanno seduti alla scrivania nei corridoi ministeriali. Una volta mi hanno spiegato perché questi enormi corridoi non possono essere razionalizzati negli spazi e ristretti per la presenza dei suddetti commessi che stanno lì a fare niente. Oh, ma questo è il commissario della Spending Review che parla. Questa è l'Italia vista da un marziano, forse arrivato dall'America dopo 25 anni al Fondo Monetario Internazionale. Comunque, poi parla anche della sua vita: Cremona è la città migliore, poi Washington, poi Roma. Non è che tra un po' la ritroveremo in Italia come componente della troica del Fondo Monetario? No, spero di no. Non credo che l'Italia avrà bisogno di chiedere un prestito. Comunque, in quest'anno molta gente mi è stata vicina, mi incontravano, dicevano: Cottarelli, vada avanti! E io mi stupivo, perché credevo che facendo questo lavoro avrei ricevuto più insulti. Parla, è un'intervista molto preziosa a Carlo Cottarelli, un racconto dell'Italia, i militari che non possono portare in giro l'ombrello e per questo devono avere l'auto blu per legge. Vabbè, io mi fermo qui, ma Ci sono cose che fanno arrabbiare oggi se leggete i giornali, o se ascoltate la rassegna, perché Giambattista Bozzo racconta le solite mance ai forestali. Sapete che nella legge di stabilità c'erano anche un po' di soldi ai forestali della Calabria, ai lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, e poi anche ai padroncini dei camion, come li chiama Gramellini, che mette tutto questo nel suo buongiorno dal titolo Mazzette di Stato. Un gufetto amanuense ha infilato nelle pieghe della Renzi Detax alcune mance, niente male. 250 milioni per i padroncini dei camion, 100 per gli LSU di Napoli e Palermo, 140 per un vecchio classico, i forestali della Calabria. Più numerosi lì che in tutto il Canada. Si tratta di mazzette di Stato, scrive Gramellini, atte a scongiurare code natalizie di cotechini scaduti al Brennero, assembramenti di masanielli nelle piazze del sud e il consueto crepitio di fuocherelli estivi lungo i boschi della Sila. Ma non si era cambiato verso, come d'annuncio? Si sarebbe tanto voluto, ecco, ma la carne è debole, la fantasia è immensa. Li hanno chiamati micronorme. Questa legge di stabilità, micronorme, le ha messe lì, fa pensare a un ninnolo, un omaggio, una carineria. Amico forestale gradirebbe una micronorma, su, la prenda per farci giocare un po' i bambini. Micro scatterà dal 2017, anche se aveva appena annunciato che avremmo accorpato i forestali ai poliziotti, ma era una micro battuta. In compenso ho confezionato un macro scherzo alle regioni, confidando sull'appoggio dei cittadini che le considerano a ragione un crocevia di camarille e ruberie. Pensi come sono furbo, ho ridotto le tasse statali coi soldi destinati ai governatori locali, che così saranno costretti a aumentare l'addizionale IRPEF, facendosi odiare ancora di più. Ma lei stia sereno e si goda la sua micronorma. Qui si cambia verso perché nulla cambi. Questo è il buongiorno di Gramellini, la micronorma. Vabbè, ma non sono queste notizie da mani sul volante. Non è neanche la notizia da mani sul volante che vince oggi il fatto che arrivi l'autovelox che stanerà gli evasori di assicurazione. State attenti, è nella legge di stabilità l'autovelox che da lontano, zac, vi farà la foto che non avete l'assicurazione esposta. È vero che questo non è indice di multa, ma scatterà il controllo e voi dovrete andare a dimostrare che avete pagato l'assicurazione. Arriva questo autovelox, quindi tanto vale riesporla obbligatoriamente. Non vince, e questa era un po' da mani sul volante, capite l'autovelox. Non è da mani sul volante come premio di oggi neanche il fatto che alla Camera, racconta Carmelo Lo Papa, sia arrivata la ribellione dei pensionati d'oro. 300 ex dipendenti della Camera hanno fatto ricorso. Non diamo contributi. No al versamento di solidarietà, hanno scritto Laura Boldrini, suscitando non poca sorpresa, scrive Repubblica. Il loro ricorso legale è piombato e perentorio. No al taglio di 6, 12, 18% previsto dalla legge a un contributo di solidarietà agli ex dipendenti della Camera. Ma neanche questa vince mani sul volante, perché mani sul volante è l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, anche se ce ne sono stati già un po', è quello di Giuseppe Lo Bianco sul Fatto Quotidiano. Nelle ultime settimane l'Assemblea regionale siciliana, nelle ultime 6 settimane, ha lavorato una media di, gli deputati, un'ora a settimana. Un'ora a settimana con qualche onorevole che protesta. Fateci lavorare! Che lo stipendio, quello arriva regolare. In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. Alessandro Milan, il ginecologo dell'informazione. Ma che siamo matti? Rispondo al messaggio di un'ascoltatrice che mi chiede in che giornale c'è l'intervista a Cottarelli. Alessandra, è sul Corriere della Sera l'intervista di Beppe Severgnini, davvero un'intervista incredibile per quello che racconta Cottarelli, a cominciare dal regolamento che impedisce ad alcuni ufficiali dell'esercito di andare in giro con l'esercito e con l'ombrello e quindi andando senza ombrello e non potendosi bagnare, per regolamento hanno diritto all'auto blu. È l'Italia, signori, è l'Italia. nel 2014, non nel 1315, nel 2014. Comunque la legge di stabilità prevede dei tagli che hanno fatto arrabbiare i governatori. Ieri Chiamparino, qui alle 8 del mattino, aveva definito da 7 la manovra, poi evidentemente si è riunito con, come ci aveva detto, con gli altri presidenti di regione che l'hanno un po' gli hanno un po' fatto cambiare idea, e da lì è stata una giornata in cui ha parlato Chiamparino di tagli inaccettabili. Renzi ha replicato dicendo gli sprechi sono vostri e comunque se vi lamentate per un miliardo è quasi una provocazione. Tutti raccontano di come c'è stata anche una rottura tra Renzi e Chiamparino a suoni di dichiarazioni, quando invece i due si stimavano, si stimano continuamente anche ora, ma questa legge di stabilità si è messa di mezzo. Goffredo De Marchis su Repubblica replica però e scrive che Renzi è pronto a mettere online spese di sindaci e regioni, così i cittadini sapranno se il problema sono i soldi che non hanno o come li spendono. Così Matteo Renzi, che racconta Repubblica quando sente il rumore dei nemici, come lo chiama l'ex allenatore dell'Inter Mourinho. Matteo Renzi non arretra, anzi attacca. Insomma, la nuova battaglia contro le regioni c'è. E allora la prova di forza con le regioni, anche il Corriere scrive, lite tra Renzi e Chiamparino. Parlano i governatori, sono soprattutto i più attivi Nicola Zingaretti della Regione Lazio e Luigi Zaia, vengono messi entrambi intervistati a pagina 4 di Repubblica. Zaia dice è facile tagliare in questo modo coi soldi degli altri, mentre Zaia dice noi porteremo la manovra alla Corte Costituzionale per farla bocciare. Così Zaia e Zingaretti. Certo, il Fatto Quotidiano racconta: sanità, scuola, treni cambiano verso, costeranno di più, dai pendolari ai farmaci, dalle mense scolastiche al sostegno agli anziani, dai fonti all'alluvione ai bus. Tagliare le autonomie significa servizi più cari o assenti. Marco Palombi racconta a pagina 3 quello che potrebbe essere il risultato di questo taglio alle regioni. Certo, aggiungo io, in un paese normale, se ti dicono di tagliare, si taglierebbero i tanti sprechi che ci sono. Ci sono anche tanti servizi, ovviamente, che le regioni danno, ma prima si taglierebbero gli sprechi. Il timore, invece, che come al solito succederà, che si dirà, beh, è inevitabile aumentare le tasse. Attenzione a proposito di tasse, perché il Messaggero racconta a pagina 5 che nel 2016 arriverà la sorpresina. Ve lo diciamo con largo anticipo e così vi mettete l'animo in pace. La sorpresina è questa: IVA, maxi aumento in arrivo dal 2016. Nella bozza della legge di stabilità è previsto tra 14 mesi l'incremento delle aliquote del 10, del 22 e delle accise. Stavolta è più di una mina da disinnescare, è una bomba orologeria con timer fissato sulla data del 1 gennaio 2016. Tra 14 mesi, racconta Andrea Bassi sul Messaggero, l'IVA e le accise aumenteranno. Novità messa nero su bianco all'articolo 45 della bozza di legge di stabilità, e questa volta non è una clausola di salvaguardia, è una misura di sicurezza. No, no, le aliquote IVA del 10 e del 22%, spiega il testo, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio del 2016. È proprio così. Sono incrementate e anche le accise su benzina e gasolio avranno lo stesso destino. Quello che manca ancora, almeno nelle ultime bozze circolate, sono le cifre di questo aumento, ma non saranno irrilevanti, non saranno irrilevanti. E dunque anche l'IVA. Di tutto questo, e non solo di questo, parla il ministro dell'economia Padoan, intervistato da Fabrizio Forché, prima pagina del Sole 24 Ore. Definisce la manovra una manovra a espansione qualificata, Padoan. È una manovra espansiva che unisce misure di bilancio con una forte riduzione fiscale e riforme strutturali come quella del lavoro e della giustizia civile. Rilanciamo la crescita con risorse limitate ma con misure qualitativamente efficaci. A proposito del rapporto con l'Europa abbiamo un dialogo aperto. Abbiamo mandato alla Commissione la legge di stabilità. Appena approvata, entro il 29 loro esprimeranno una valutazione. e sul timore di un'eventuale bocciatura, dice Padoan, abbiamo rapporti articolati con Bruxelles dal momento che c'è una fase di transizione. Alcune figure stanno cambiando, ma altri, come Katainen, resteranno, cita il commissario considerato il falco dell'amministrazione europea. Lo so che è considerato un falco, dice lo stesso Padoan, ma io con lui ho un rapporto buono e costruttivo. Gli ho spiegato il senso della nostra manovra, delle riforme che stiamo facendo. Ho trovato da parte sua un forte apprezzamento, a cominciare dal Jobs Act. Dunque, Padoan dice che dall'Europa ci si aspetta ottimismo, nonostante Katainen. Di fatto, riguardo alle regioni, sono convinto che oggi le regioni possano aumentare l'efficienza dei servizi senza aumentare le tasse. Quello delle siringhe è un esempio vero, così dice Padoan, che conclude nell'intervista di Fabrizio Forché. Domanda di rito: il barometro dei miei rapporti con Renzi, bello stabile. E su questa manovra credo proprio che si sia visto. Rapporto bello stabile tra Padoan e Renzi. Siamo tutti più sereni, come direbbe Mauro Meazza. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Siamo sereni ai massimi livelli, ottimo, come si potrebbe dire. Ottimo. Ecco. Tu sei sereno? Sereno. Beh, variabile. Io sono, insomma, sono moderatamente sereno, perché sono 24 ore di oggi. Tra le altre cose, il petrolio che scende sotto gli $80. Non so perché, ma ho capito leggendo Sissi Bellomo che non è proprio una buona notizia. Però vabbè, trovi tutto nelle pagine di Finanza, vedi un po', insomma, poi ti regoli tu, ecco, anche con gli ascoltatori. Poi ti volevo dire, nella legge di stabilità, che posso introdurre una variante linguistica? Tu? Fallo. No, vorrei precisare sempre, è un disegno di legge di stabilità. Sì, certo. Ecco, va riempito, va approvato dal Parlamento intanto. Ecco, ci sarebbe questo piccolo dettaglio, cioè sono tutte idee, sì, in questo momento, poi entro la fine dell'anno diventano cose vere, effettive, vedremo come. Ecco. Comunque, ecco, nel disegno di legge di stabilità, apprendo dal Sole 24 Ore di oggi, ci sono 10 pagine dedicate al tema, che ci sarebbe questo affare dell'IRAP che sì, scende da una parte, però sui nuovi assunti, ma in realtà torna l'aliquota di prima su un'altra parte. Vabbè, insomma, torna al 3,9, ma rimando tutti i particolari in cronaca, anzi scusami, norme e tributi, come mi capita spesso di dire, e poi altre cose sulla legge di stabilità, tra cui il ravvedimento operoso, già te ne ho parlato ieri, ti stai ravvedendo? Ah, sì. Ecco, trattandosi di un disegno di legge è più opportuno dire ti stai preparando a ravvederti, anche per quanto riguarda il rientro dei capitali. Ieri c'è stato il voto, ti spieghiamo bene che cosa contiene anche qui un disegno di legge sul rientro dei capitali, quindi puoi in qualche modo cominciare a orientarti per il ravvedimento. E poi vediamo come vanno le borse, ci sono ovviamente parecchi articoli oggi nelle nostre prime pagine dedicati al tema, con l'abituale bussola per il risparmiatore, per cercare di spiegare un pochino sia cosa sta succedendo, sia anche come ci si potrebbe comportare. Okay. Tu, caro Mauro, lavori più dell'Assemblea regionale siciliana, dove, scrive Il Fatto, lavorano nelle ultime settimane un'ora a settimana? Ma io penso di fare anche un'ora e mezza, sinceramente. Cioè, contando tutti questi minuti che stiamo al telefono, con questo lancio siamo a un'ora e mezza a settimana. Tranquillo, allora siamo nella media. Sopra media. Buona domenica, allora. Anche a te, Alessandro. Buon campionato. Abbiamo lavorato troppo. Auguri per Inter Napoli. Altrettanto a voi. Grazie. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Oh, è tornato il nostro amico panettiere, o meglio il panettiere, quello del panettiere. Il panettiere poi sono io. Allora, sono arrivate le motivazioni, 332 pagine della sentenza d'appello al processo Rubi, che ha mandato assolto Silvio Berlusconi. I due reati erano concussione e prostituzione minorile. Perché? In estrema sostanza, perché Berlusconi non sapeva che Rubi era minorenne. nel momento in cui era ad Arcore, anche se accertato dai giudici un giro di prostituzione, e poi perché non ha fatto mai pressioni sulla questura di Milano per farla liberare. Sicuramente, come scrivono i giudici, è sicuramente accertato che l'imputato abusò della sua qualità di Presidente del Consiglio simulando interesse istituzionale al rilascio di Karim al-Marug, cioè Ruby, strumentalizzando in tal modo la propria qualità pubblica per fini personali, ma non ha, come dire, fatto il reato di concussione, non ha fatto pressione, semmai il funzionario che ricevette la chiamata in qualche modo si è mostrato molto anche intimorito per il ruolo istituzionale di Berlusconi e quindi ha fatto quello che ha fatto rilasciandola, ma non, come dire, su pressione, non per reato, non c'è il reato di concussione. Queste sono le motivazioni. Allora, ovviamente ci sono anche qui commenti, certo la vicenda non è come era sui giornali qualche anno fa quando Berlusconi era Presidente del Consiglio. C'è un'intervista a Emilio Fede, intervistato al Secolo XIX, che dice: si chiude un cerchio malvagio, io resto col cerino in mano, su di me hanno detto una falsità dietro l'altra e tutto hanno fatto per farmi scomparire dall'informazione, ma tutto per fare una cortesia non si sa bene a chi. Ecco appunto, chiede Patrizia Albanese, a chi avrebbero fatto una cortesia nel toglierla dal mondo dell'informazione? Sentite la risposta di Emilio Fede: a un dirigente cinese, un politico cinese, tanto per portare lontano dall'Italia ogni sospetto. Boh, un politico cinese. Così Emilio Fede sul Secolo XIX. Ma la notizia più interessante legata alla vicenda Ruby la dà in esclusiva, la scrive in esclusiva il Corriere della Sera, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. La notizia è questa: lascia la toga il giudice che voleva la condanna. Uno dei tre membri della Corte d'Appello che hanno firmato l'assoluzione, appunto ha mandato assolto Berlusconi, si tratta di Enrico Tranfa, presidente del Collegio della Corte d'Appello del processo Ruby, si è dimesso ieri di colpo dalla magistratura con una scelta che svela il suo radicale dissenso dalla decisione maturata nella terna dei giudici di assolvere l'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Tranfa si è dimesso immediatamente dopo aver firmato ieri mattina le 330 pagine delle motivazioni della sentenza d'appello Berlusconi-Ruby. Dimesso non dal collegio e neppure solo dalla seconda sezione della Corte d'Appello di Milano che presiede. Dopo 39 anni di toga è proprio ha scelto di andare in pensione con 15 mesi di anticipo sul previsto. Un gesto di protesta muto, non accompagnato da alcuna spiegazione formale al CSM e agli uffici giudiziari. Così scrive il Corriere, dunque c'è uno dei tre giudici, il presidente Tranfa, che si è dimesso dopo aver firmato, e scrive il Corriere, per dissenso contro l'assoluzione di Silvio Berlusconi. Vabbè, ci sono tanti articoli, tra l'altro Silvio Berlusconi, che racconta a tutti i giornali, ieri ha avuto un permesso speciale, lui deve dormire ad Arcore dal lunedì al giovedì, ma ha avuto un permesso speciale dal giudice di sorveglianza perché voleva incontrare Putin, cosa che ha fatto ieri a Milano, e quindi è stato concesso di dormire fuori Arcore per il dopo cena di Vladimir e Berlusconi, l'ok dei giudici a dormire fuori Arcore, come racconta il Messaggero in una mezza pagina di Renato Pezzini. Voglio andare a qualche notizia di cronaca. La prima è questa: ricordate, qualche giorno fa parlai di un carabiniere, o meglio un ex carabiniere, che fu sequestrato da alcuni violenti che manifestavano contro la TAV e poi lo Stato trattò per lui? Beh, questo ex carabiniere ora parla, lo fa con Libero, Rita Cavallaro, si chiama Luigi De Matteo, il vice brigadiere, che dice: sono vivo per miracolo, ricordo bene quella giornata, 3 luglio 2011, improvvisamente entrarono una centinaia con una carica, io caddi a terra dopo aver salvato un compagno, mi guardai intorno, non si vedeva più niente, c'era troppo fumo, mi avevano lasciato solo tutti i miei colleghi e allora sono arrivati questi incappucciati, ricordo una raffica di calci, pugni, sprangate, mi hanno massacrato, rapinato, mi hanno pure derubato della catenina di mio padre per cui avrei dato la vita, ho avuto paura di morire, nessuno veniva a salvarmi. ricordo come fosse un sogno una ragazza di loro che diceva: basta, lasciatelo stare, lo state ammazzando. Mi sono poi risvegliato in ospedale con punti in testa, diversi traumi cranici, contusioni in tutto il corpo. Ora questo ex carabiniere dice: mi ha lasciato da solo anche lo Stato, perché sono stato sequestrato da quei violenti. C'è stata una trattativa per liberarmi, evidentemente, e ora spero che paghino chi mi ha fatto questo, anche perché, racconta, ho dovuto lasciare l'arma dei carabinieri per problemi psicologici, sono cambiato, non sono più la persona sicura di una volta, coltivo l'orticello, mi dedico a questo hobby, ma mi sento quasi inutile. La verità è che non riesco più a superare quelle violenze subite. Parla a Libero l'ex vice brigadiere Luigi De Matteo. Mentre si complica per Alberto Stasi, processo d'appello, il Corriere della Sera racconta con Giusy Fasano l'omicidio di Garlasco e di Chiara Poggi, l'unico imputato è lui, l'ex fidanzato. Ora spunta la carta di credito che lo accusa: comprò scarpe. Sapete che non sono state mai ritrovate le scarpe dell'omicida. Al centro del processo ci sono le scarpe di Alberto Stasi, che però non sono compatibili con le scarpe dell'omicida, e però erano prive di sangue, una cosa che sarebbe stata un po' strana per chi è entrato in quella casa, come ha raccontato lui, avendo trovato la fidanzata morta. E ora però spunta l'acquisto di un paio di scarpe che però non sarebbero tra quelle sequestrate dai carabinieri a casa sua all'epoca dei fatti. Risulta però una traccia dall'utilizzo di una carta di credito dalla quale sono stati ricostruiti i movimenti nelle settimane precedenti del delitto. Dove sono queste scarpe? Questa potrebbe essere la chiave di volta, almeno per i pubblici ministeri, per accusare Stasi dell'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Mentre si infittisce sempre più il mistero della morte di Pantani, io non ho capito come mai stiano rispuntando adesso tutte queste vicende. Ora Repubblica racconta addirittura che c'è una nuova inchiesta con l'ombra della camorra nel complotto per far cadere al giro, farlo trovare con l'ematocrito alto, il pirata. La procura di Forlì, scrive Repubblica, indaga sulle rivelazioni addirittura del Renato Vallanzasca, che una volta disse in carcere: mi dissero di puntare milioni contro di lui. Si racconta in questo articolo di Marco Mensurati e Matteo Pinci, che addirittura c'entrerebbe la camorra con tutta la vicenda che ha portato poi alla morte misteriosa, a questo punto bisogna dire, di Marco Pantani. Ma siamo al momento conclusivo, la carta costa, ma io lo sapevo, con questo vertice asiatico dovevano spuntare le pagine come quella di Alessandra Coppola, un'intera pagina sul Corriere della Sera, i selfie dei leader, lo shopping cinese, cosa ha comprato la premier malese, cosa ha comprato e cosa ha mangiato i thailandesi che si sono portati il dessert, riso e cocco avvolti in foglie di banano a Milano sul Corriere della Sera. Ma chi se ne frega!